hits like the games we play. Don't you think that there's life past another day? Accoppiata di brani, quelli che avete appena ascoltato sono fra i miei preferiti del momento, nel senso che mi ritrovo spesso a canticchiarli da stonato quale sono, o addirittura a cimentarmi con l'air guitar, la chitarra invisibile. Giulio Caperdoni in vostra compagnia per la seconda parte di Eclettica, seconda parte che si è aperta con i due brani su cui già ho sproloquiato, ovvero sia Like the Rough con The Columbia e poi invece ci siamo ascoltati The Ghost Station con la trascinante All Together Now. Nome nuovo che arriva da Bergen, Norvegia, anche se lei adesso fa di base a Berlino. Si chiama Silje Ness e incide per la Fat Cat Records, con cui esce con un disco intitolato MS Room, dal quale ci ascoltiamo il brano omonimo. Yeah. sono un uomo ridicolo. Adesso loro mi chiamano pazzo. Sarebbe un avanzamento di grado se non mi trovassero sempre lo stesso uomo ridicolo. Ma adesso non mi arrabbio più. Adesso li amo tutti e persino quando se la ridono di me, anche allora, mi sono particolarmente cari. Io stesso riderei con loro, non di me stesso, ma per l'amore che gli porto, se non fosse così triste nel vederli. Così triste per loro perché non conoscono la verità, mentre io conosco la verità. Oh, com'è duro essere il solo a conoscere la verità, ma questo loro non lo comprenderanno. No, non lo comprenderanno. Questo era l'incipit de Il sogno di un uomo ridicolo di Fyodor Mikhailovich Dostoevskij. Questa gita mi spedisce a casa come uno straccio umido avvilito. Mi chiedo a cos'è servito, stando qui in vetrina noi non ci conosceremo mai. L'unica cosa che facciamo è ricordarci che saremo sempre strani. Scegliere quale letto, scegliere se dormirci dentro. In fondo ti avevo avvertito, dicevi che sarebbe andato tutto bene. Perché io odio le gite fuori porta, io vengo da te per litigare. Perché io odio le gite fuori porta, in fondo ti avevo avvertito. Perché io odio le gite fuori porta, io vengo da te per litigare. Perché io odio le gite fuori porta, vengo da te per changes clothes so fast. Could could find a way. Never could find a way. But I'm trying, but I'm trying. Letting it slip away. Letting it slip away. Letting it slip away. Cause it's dying, cause it's dying. Dopo esserci ascoltati le gite fuori porta dall'ultimo album degli Amari, album che molto probabilmente trasmetterò parecchio di meno rispetto al loro disco precedente, è la volta degli Stati Uniti all'interno di Eclettica. Stati Uniti con il brano già ascoltato, un brano piacevole ma abbastanza canonico come Happiness Machine degli Oliver Future, per arrivare invece ad un qualcosa di più inconsueto, quello che ci stiamo per ascoltare. Un disco per la Florida Recordings da parte dell'artista di Brooklyn di nome Juliana Berwick, che fa un uso molto particolare della voce. All'interno del suo intero album dal titolo Sanguine, la voce è lo strumento principale, ma non pensate ad un disco a cappella. La voce è lo strumento principale, tanto che viene variato, viene stravolto, viene sconvolto anche con l'uso di una pedaliera. E poi tutti i brani, come quello che sto per farvi ascoltare, sono brani da una struttura molto circolare, la definirei in questo modo. Juliana Berwick, Dancing with Friends. Yeah. La sera del 22 marzo dell'anno scorso mi è accaduta un'avventura assai strana. Avevo passato la giornata a girare per la città in cerca di un alloggio. Quello nel quale abitavo era molto umido ed io, fin da allora, cominciavo ad avere una tosse preoccupante. Già dall'autunno prima mi ero proposto di cambiare casa, ma ad onta di questo divisamento ero arrivato fino alla primavera senza farne nulla. Avevo girato tutto il giorno senza riuscire a trovare qualcosa di adatto. Il mio desiderio era di avere un appartamento libero, non in subaffitto. Mi sarei accontentato anche di una stanza sola, purché fosse molto grande e nello stesso tempo costasse poco. Questo era l'incipit di Umiliati e offesi di Fyodor Mikhailovich Dostoevskij. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 5, volume numero 4, indice. Subtle con Tunde dei TV on the Radio, Moon and Moon, Karen Lano, Tyler Ramsey, The Octopus Project, Altro, Lack Thereof, The Go Station, Silje Ness, Amari, Oliver Future, Giuliana Berwick, Parenthetical Girls. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.